Capitolo 23. Un addio. Lucy avrebbe sempre dichiarato che i giorni seguiti alla comunicazione di Lord Watergate fossero stati i peggiori che avesse mai vissuto. Le continue oscillazioni fra speranza e paura, gli indugi, la prolungata tensione dell'incertezza piombati da capo su di lei dopo tutto quello che aveva già sofferto, non potevano se non essere una tortura anche per una persona del suo temperamento equilibrato e moderato. Dover sopportare tutto per la seconda volta, pensava la povera Gertrude, i cui sforzi per proteggere la sorella non potevano, per la natura del caso, aver molto successo. La perseguitava giorno e notte una terribile paura che Lucy potesse completamente venir meno e sfuggire al suo controllo. Il mondo le sembrava popolato da ombre che lei non poteva far nulla di più per afferrare mentre passavano oltre, lei stessa l'unica creatura di una qualche permanenza fra tutte loro. Ma gradualmente la tremolante fiammella della speranza diventava più luminosa e costante e poi mutò in una gioiosa certezza. Un meraviglioso giorno, verso la fine di marzo, Frank fu di nuovo con loro. Frank, forse più magro e abbronzato, ma sotto nessun aspetto peggiore per quello che aveva passato. Frank, come loro lo avevano sempre conosciuto, affabile e premuroso e comprensivo, con la vecchia deliziosa fiducia di essere ben voluto. E io non c'ero, pianse, addolorato, biasimando se stesso quando Lucy gli ebbe raccontato i dettagli della loro triste storia. Non facevo che pensare se Frank fosse qui. Penso che lo avrei ammazzato, disse Frank in tutta franchezza, e Lucy gli si accostò, grata perché questo suo desiderio non era stato esaudito. Si trovavano insieme nello studio, era il giorno seguente al ritorno di Jermyn e Gertrude era seduta svogliatamente al piano di sopra, le sue mani sempre impegnate, per una volta oziose sul grembo. Fra pochi giorni sarebbe stato di nuovo aprile, per la seconda volta da quando loro padre era morto. L'esperienza di un'intera vita era stata compressa in quei 2 anni. Pensava, mentre i suoi occhi seguivano con indifferenza il vestito verde dell'insegnante dell'istituto superiore, che sgattaiolava via per la strada. Sapeva che spesso succedeva così nella vita degli uomini, una rapida successione di eventi, un'intensa concentrazione di ogni sorta di esperienza in un breve spazio, e poi lunghi, grigi periodi di calma priva di avvenimenti. Sapeva anche com'era quando gli eventi, nel bene o nel male, si riversavano in quel modo su un certo gruppo di persone. La maggior parte veniva condotta a nuovi ambienti e per loro lo scenario mutava completamente. Ma dappresso restava sempre qualcuno, almeno che, una volta passata la tempesta, si scopriva arenato e abbandonato, senza che avesse avanzato di un passo nel cammino rispetto a prima. Il fulmine non lo ha colpito, le acque non lo hanno travolto, né alcun vascello straniero lo ha condotto a nuovi lidi. È stato solo percosso e fatto a pezzi ed è stanco di combattere. Ha perduto forse tutto quello che per lui era importante e non è più capace di riprendere il viaggio. Gertrude sorrise di se stessa mentre portava avanti la piccola metafora, poi si era alzata e aveva attraversato la stanza fino allo specchio che era appeso sopra il camino. Mentre il suo occhio cadeva sul proprio riflesso, le vennero in mente le parole di Lucy Snow. Guardavo me stessa riflessa nel vetro, nel mio abito da lutto, un'immagine sbiadita dagli occhi incavati. Sebbene mi dissi un poco pensiero per lo spettacolo esangue, sentivo ancora la vita alle fonti del vivere. Era quello il lato peggiore della faccenda, l'essere terribilmente attaccati alla vita. Per quanto potesse sembrare inconcepibile, lei sapeva che un giorno sarebbe stata di nuovo in piedi a combattere la vecchia battaglia, non solo per l'esistenza, ma per la felicità stessa. Aveva solo 25 anni quando tutto questo veniva asserito. In verità aveva lasciato molto alle spalle, ma aveva ancora la maggior parte della vita da vivere. Sobbalzò leggermente quando la maniglia della porta venne abbassata e la signora Marion annunciò Lord Watergate. Lei gli porse la mano, accennando un sorriso. «Siete passato allo studio?» disse mentre entrambi si accomodavano a sedere. «Sì, è stato proprio Jermyn ad aprirmi la porta e a insistere perché venissi qui. Benché, per dirvi la verità, avrei esitato ad entrare se avessi avuto qualche possibilità di scelta, ma non è stato così.» Lucy si è ripresa in modo sorprendente, non trovate? Sembra proprio quella di prima. Jeremy mi ha detto che hanno intenzione di sposarsi pressoché subito. Sì, immagino che vi abbiano detto che Lucy continuerà a portare avanti il lavoro in seguito. Nel vecchio posto? No, ci siamo liberati di quel che restava dell'affitto e loro propongono di trasferirci in qualche locale dove possono essere arrangiati gli studi di entrambi. E voi? Non lo so. Penso che Lucy mi vorrà come fotografa. Signorina Lorimer, prima di tutto dovete fare qualcosa per ristabilirvi. Cederete completamente se non fate nulla. Qualcosa, nel tono di quelle parole sincere, la fece trasalire. Si voltò dall'altra parte mentre un inspiegabile timore si impadroniva di lei. Sarà tutto a posto, dopo una breve vacanza. Vi siete presa cura di tutti. Avete fatto il lavoro di tutti, sopportato i problemi di tutti. Inaspettatamente si fermò di colpo e aggiunse con meno sincerità: Quis custodet custodiem? Conosce il latino, signorina Lorimer? Lei si alzò involontariamente, poi rimase in piedi, come in difesa di fronte a lui. Era ridicolo che due persone in gamba come loro si trovassero così imbarazzate e impacciate. Quegli altri giù nello studio non avevano mai vissuto nulla di tanto spiacevole, ma nessuno dei due aveva dovuto innestare la nuova felicità su un antico dolore. Per nessuno dei due c'era stata l'ombra della memoria a oscurare la speranza. Gertrude raggiunse la mensola del caminetto e cominciò meccanicamente a sistemare dei fiori in un vaso. Per una volta trovò la presenza di Lord Watergate, fonte di disturbi e di dolore. Era confusa, scontenta, sospettosa di se stessa. Desiderava scoprire che se n'era andato quando avesse girato la testa di nuovo. Invece lui era in piedi, accanto a lei, con un'espressione perplessa, ansiosa sul volto. Signorina Lorimer, disse, e non c'erano fraintendimenti nel tono della voce. Sono venuto troppo presto. È troppo presto perché io parli. Era sopraffatta, attonita, infinitamente turbata. Il suo spirito indietreggiò spaventato. Che cosa le aveva sempre recato i più stretti rapporti umani se non una pena indicibile e sconfinata? Qualche cieco istinto dentro di lei le suggerì le parole mentre parlava, alzando il capo, con la posa di qualcuno che vuole schivare un colpo imminente. Oh, è troppo presto, troppo presto. Lui restò per un momento immobile a guardare con i suoi occhi profondi. Tornerò, disse. No, oh no. Nascose la faccia fra le mani e piegò la testa verso il marmo. Ciò che lui offriva non era per lei, era per un'altra donna. Per una donna più felice, per una donna migliore forse, ma non per lei. Quando sollevò il capo, se n'era andato. Il turbamento momentaneo e ragionevole era scomparso, lasciandola dura come una pietra, e allora si rese conto di quello che aveva fatto. In un lampo, il suo stesso cuore le si rivelò apertamente, come sembrava impossibile, eppure sapeva che era reale. Per tutto quel tempo di mestizia, quando il suo interesse personale sembrava distante da lei, il suo interesse più importante era cresciuto senza far rumore. Non la pianticella di una notte, ma l'albero che ha piantato radici per perdurare attraverso i secoli. Lei, che era stata così forte per gli altri, aveva miserabilmente fallito per se stessa. L'amore e la felicità le erano venuti incontro a braccia aperte e li aveva respinti. L'amore e la felicità. Quei fuochi fatui avevano danzato poco prima dinanzi alla sua vista ingannata. L'amore e la felicità. Avrebbe dovuto dire più propriamente la pietà e una mite pace. Non è amore quello che si lascia così facilmente rifiutare. La felicità non era per una persona come lei, ma la pace. Quella sarebbe venuta col tempo. Ora c'era la possibilità che non sarebbe venuta affatto. Tutte le primavere della sua esistenza erano sembrate per così lungo tempo congelate alla loro fonte. Ora, in quell'unico breve momento di eccitazione, per metà estasi, per metà disperazione, il gelo si era sciolto e il suo cuore era stato inondato da un fiume. Coprendosi il volto con le mani, si inginocchiò alla sedia vuota e un pianto sgorgò dalla sua anima. il pianto di felicità di un essere umano, il pianto d'amore di una donna. Capitolo 24. In ultimo. Hotel Prince de Galles, Cannes, 27 aprile. Mia carissima Gertie, riceverai una lettera oggi, anche se è più di quello che ti meriti. Perché non mi scrivi mai? Ora che le tue giovani donne sono sposate al sicuro, non hai assolutamente scuse. Ad ogni modo, la povera incolpevole mamma oggi ha letto a colazione l'annuncio del matrimonio ad alta voce. Fred è diventato rosso cremisi e stava soffocando con il caffè, mentre io ho avuto un attacco silenzioso di risate. Comunque, è uno spirito completamente combattivo adesso che gioca a tennis con una signora matura con i capelli biondi. Che gli interessa molto è che papà, in modo sprezzante, chiama sguattera d'albergo. Tutto questo, permettimi di dire, è la parte preliminare. Ho una notizia per te, ma per qualche motivo non vuol venire fuori. Non che ci sia qualcosa di cui vergognarsi, il fatto è, Gertie, che mi avvio a seguire il destino di tutta l'umanità, ovvero sto per sposarmi. Credimi, è il percorso più ragionevole che una donna possa intraprendere. Mi auguro seguirai il buon esempio. Ricordi le parole di Saffo? J'ai tant aimé, j'ai besoin d'être aimé. Non farti turbare dalla citazione, niente si prende troppo sul serio. Penso che il signor Graham, sai, Lawrence Graham, ci tenga a fare le cose come fanno gli uomini. È venuto qui appositamente 2 settimane fa e ieri l'abbiamo risolta tra noi. Gertrude non lesse oltre. Il sottile foglio scritto fitto fitto le cadde di mano. Rimase a fissare il foto davanti a lei. La lettera di Connie, con la sua allegria in parte reale, in parte affettata, ferì il suo buon gusto e la rattristò piuttosto irragionevolmente. Era questa la più difficile caratteristica del suo destino. Per le persone che amava, per le persone che stimava, non era stata in grado di fare proprio nulla. Quell'ultimo giorno del mese di aprile sedeva in solitudine nello studio smantellato. L'indomani Lucy e Frank avrebbero fatto ritorno dalla Cornovaglia e avrebbero preso possesso della nuova casa. I suoi progetti per il presente erano indefiniti. Una delle sue storie, dopo varie visite nella redazione editoriale, le era tornata indietro alla fine, nella forma di bozza, corredata per di più da quello che le sembrò un bell'assegno. Forte di questo, aveva organizzato una visita di alcuni mesi ad un'amica a Firenze. Dopo quel periodo, con tutta probabilità, avrebbe ripreso insieme a Lucy l'attività fotografica. Non c'era il camino acceso e il sole che nelle prima parte del giorno aveva intiepidito la stanza. Era tramontato. Quasi tutti i mobili e i loro beni erano già stati spostati nel loro studio, ma altri erano ancora rimasti ammassati e accatastati nella penombra. L'insegna nera, con le lettere dorate, poggiava in verticale abbandonata in un angolo, come consapevole del fatto che la sua stagione era finita per sempre. Gertrude era stata indaffarata nello svuotare un armadietto, ma la luce se n'era andata e non ci aveva rinunciato. Sopraggiunse un'ora molto cupa per lei, accovacciata in quel freddo crepuscolo nel laboratorio dismesso che sembrava rappresentare la sua vita stessa. Proprio lei, che riteneva l'infelicità una cosa vile, il cinismo una cosa miserevole, aveva adesso perso tutta la gioia di vivere e tutta la fiducia. La piccola costruzione di filosofia, di speranza, di autonomia, che era stata capace di edificare con tanta fatica, sembrava essersi sbriciolata sotto il suo naso. Tutte le battaglie, tutti i sacrifici della vita apparivano come inutili. Cosa le aveva portato l'esistenza se non disillusione, amarezza, un ulteriore senso di debolezza? Alla fine si alzò e iniziò a camminare su e giù per la stanza. Passerà, disse a se stessa, sono di malumore e non ci si può meravigliare. Si sedette su una sedia vuota della stanza e appoggiò la testa sulla mano, lasciando che i pensieri vagassero liberamente. I suoi occhi erravano per la piccola stanza buia, così piena di ricordi per lei. Ombre la popolavano, voci oniriche la riempivano del loro suono. Lucy e Phyllis e Frank si muovevano qua e là tra scherzi e risate. Anche Fanny era lì, a manomettere simpaticamente l'attrezzatura. E Darrell La guardò una volta con occhi di ghiaccio, anche se in realtà era stato un raro visitatore dello studio. Quindi tutti i fantasmi si dissolsero e le sembrò di vedere qualcun altro al loro posto. Un uomo, alto e forte, un viso pieno di rabbia e dolore. Lord Watergate, come le era apparso in quella notte indimenticabile. Poi la rabbia e il dolore svanirono dal suo volto e non ci lesse nient'altro che amore. L'amore per lei che rifulgeva nei suoi occhi. E si nascose la faccia piena di vergogna. Cosa doveva pensare di lei? Forse che disprezzava il suo dono, che non ne capiva il valore, che perciò l'aveva sdegnato. Se soltanto avesse potuto dirgli questo, che era proprio la percezione dell'immensità di ciò che lui le offriva ad averla fatta tremare, allontanare e rifiutare. Non si allunga la mano con impazienza. A un così grande dono. Le aveva detto di non ritornare e lui l'aveva presa alla lettera. Stava scontando la punizione che il suo sesso sempre sconta in un modo o nell'altro per le proprie battaglie di coraggio e indipendenza. Si era negata, disse a se stessa con una sfumatura di mesto umorismo, l'indulgente privilegio femminile di cambiare opinione. Lord Watergate avrebbe potuto amarla di più se l'avesse rispettata meno o perlomeno se avesse un po' tenuto conto della testardaggine femminile. Come il resto del mondo non era riuscito a comprenderla, a vederne la debolezza, nonostante tutti i suoi sforzi per essere forte. Spinse via i capelli dalla fronte con il vecchio gesto risoluto. Bene, doveva imparare a essere forte sul serio adesso. Il vigore e i tendini dell'anima, i muscoli morali si rafforzavano con la pratica, non meno di quelli del corpo. Non doveva star lì a rimuginare, ma doveva alzarsi e sconfiggere il destino. Finora forse la vita non era stata altro che una serie di sconfitte, una serie di sbagli. Era del tutto possibile che il futuro non avesse nulla di meglio in serbo per lei. Non era questo il fatto. Tutto quello che la riguardava era combattere la battaglia. Accese una candela solitaria e iniziò a ordinare foglie e stampe sul tavolo accanto. Se ci tenesse. Continuavano a correre i suoi pensieri, sarebbe tornato a dispetto di tutto. Senza dubbio era stato un mero e fugace impulso di compassione ad avergli ispirato quelle parole, aveva persino desiderato il suo rifiuto, oppure era solo un'illusione di Gertrude. Quel breve istante in cui lui aveva parlato era davvero mai esistito al di fuori della sua immaginazione. Il pensiero più meschino di tutti, un pensiero che le faceva infiammare di scarlatto le guance. Pur in quella solitudine, era che avesse frainteso una semplice manifestazione di gentilezza, una schietta dichiarazione di compassione. Aveva dunque rifiutato qualcosa che non le era stato mai offerto. Si sentiva tremendamente sola mentre indugiava lì al buio, cercando di abituarsi al pensiero di lunghi anni di solitudine e mestizia che vedeva tendersi dinanzi a lei. Il mondo, persino quello rappresentato dai suoi migliori amici, l'aveva etichettata come una donna di grande ingegno. Un consenso universale le aveva assegnato una parte e doveva necessariamente recitarla. Sentì un rumore di passi provenire dal corridoio di sughero e concluse fosse la signora Marion che le portava la cartolina di Lucy che stava aspettando. Entrate, disse, senza sollevare la testa dal tavolo. La persona che era entrata non era la signora Marion. Si avvicinò al tavolo con quell'unica candela e si fermò di fronte a lei. Quando Gertrude vide chi era, fu come se il suo cuore smise di battere. Così in un attimo il volto dell'universo per lei era cambiato per sempre. Lord Watergate, vi avevo detto che sarei tornato, a dispetto di voi. Non mi direte che sono venuto troppo presto, o invano. Non dovete pensare che non ho dato valore a ciò che mi avete offerto. Disse semplicemente, sebbene la sua voce vacillasse, che non ho pensato di esserne profondamente onorata, ma avevo paura. Ho sofferto talmente tanto. E io che, Gertrude, povera bambina mia, e io che ti ho lasciato per tutto questo tempo. La fiamma, che tremolava verso l'alto, gli aveva infatti rivelato il suo viso stanco e smarrito. Gli aveva anche svelato lo sguardo commovente dei suoi occhi che lo fissavano supplichevoli, fiduciosi, innamorati. L'aveva presa tra le braccia, senza alcuna spiegazione, senza scuse, tenendosela stretta al petto come chi stringe a sé un bambino esausto. e Gertrude, che lo guardava dritto in faccia, fin dentro la limpida profondità dei suoi occhi, sentì che tutto ciò che c'era di miserabile, sgradevole e privo di senso nella vita svaniva di colpo nel nulla, mentre tutto ciò che c'era di buono e nobile e bello acquistava un nuovo significato e diventava l'unica realtà possibile. Epilogo. C'era ancora qualcosa da dire sulle persone apparse in questa storia. Fanny continua a prosperare a Notting Hill, la mancanza di figli è l'unica macchia nella sua tazza e in quella del marito. Ma forse, come Lucy commenta in via confidenziale, è meglio così, perché non penso che i Marsh avrebbero saputo come crescere un bambino. Perché Lucy, similmente a tutte le giovani matrone di oggigiorno, ha opinioni precise in materia di educazione intellettuale, morale e fisica dei giovani. Diversamente da molti pensatori, non esita a mettere in pratica le proprie teorie. I due piccoli occupanti del suo nido sono la testimonianza di un'eccellente formazione. La fotografia, ciononostante, non è stata tagliata fuori dai doveri domestici e nessun infante che ha pretese di essere alla moda manca di presentarsi davanti all'obiettivo della signora Jermyn. Lucy ha ceduto alla moderna pratica della specializzazione e solo qualche giorno fa ha riportato da una mostra professionale una medaglia per gli scatti di alcuni bambini. Suo marito non ha minor successo nella propria carriera dopo aver abbandonato definitivamente il pennello per l'ago. Promette bene di ricoprire un alto posto fra gli artisti del bianco e nero che vanno oggi. Anche i Watergate hanno una giunta in famiglia. Nella forma di una paffuta personcina con gote rose sotto vesti bianche e inamidate, che riceve una gran quantità di coccole dai suoi genitori. Gertrude si chiede se darà prova di aver ereditato l'interesse scientifico di suo padre o le inclinazioni letterarie di sua madre. Lei spera sinceramente nella prima possibilità. Connie è incantevole da donna sposata, non meno che da ragazza. Lei e Jermyn cenano spesso insieme fuori, ognuni a casa degli altri. Il suo affetto di lunga data per Gertrude permane, malgrado i loro rispettivi mariti siano completamente incapaci, come dice lei, di imitarli. Fred non ha ancora trovato una moglie, ma non c'è alcuna ragione per crederlo inconsolabile. È più l'imbarazzo della scelta che qualsivoglia altro motivo a preservarlo scapolo. Zia Caroline, dopo aver accasato in modo soddisfacente tutte le sue nipoti, continua a regnare indiscussa in certi circoli di Lancaster Gate. Parla con il più alto rispetto di sua nipote, Lady Watergate, sebbene sia stata sentita commentare sfavorevolmente la trascuratezza degli arredi a Sussex Place. Quanto a Darrell, poco dopo la morte di Phyllis, è partito per l'India su invito del viceré e vi è rimasto per quasi 2 anni. È stato solo qualche giorno fa che i Watergate si sono scontrati faccia a faccia con lui. È accaduto in occasione di una cena importante dove erano intervenuti i più distinti esponenti dell'arte, della scienza e della letteratura. Gertrude è impallidita quando l'ha riconosciuto e ha perso il filo del discorso e l'appetito, nonostante gli sguardi rassicuranti che suo marito le lanciava attraverso il tavolo. Ma Darrell aveva continuato a gustarsi la cena e a guardarne gli occhi che gli stava accanto, apparentemente inconsapevole o indifferente della prossimità dei Watergate. I Marion sono rimasti nelle vecchie sedi ad accrescere il loro conto in banca e ad allargare le loro esperienze di vita. Lo studio fotografico è stato lasciato a un fotografo giovane e intraprendente che lo ha ampliato e abbellito oltre l'immaginabile. Quanto alle stanze sopra l'ombrellaio, il salotto che si affacciava sulla strada, la cucina a 3 angoli sul retro, le 3 piccole camere da letto al piano di sopra, quando l'ultima volta sono passata di lì, erano vuote, con dei grandi cartelli sollevati dal vento sulle ante bianche delle finestre. Fine.